Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di matematica. Ce ne dà l'opportunità una recente polemica nella quale è stato coinvolto il professor Giorgio Israel, uno dei nostri maggiori matematici. Il professor Israel nelle settimane scorse, come avrete letto sui giornali, è stato sottoposto a un duplice attacco. Prima per le minacce che ha ricevuto in rete perché consulente del ministro Gelmini, minacce condite con l'epiteto di ebreo. E poi con la polemica a cui ha dato vita un suo collega matematico in occasione dell'attribuzione del premio Peano allo stesso professor Israel. Il premio Peano è un premio che viene dato ogni anno a libri di argomento matematico accessibili ad un pubblico non specializzato. Un collega di Israel, di cui preferisco non fare il nome, ha addirittura consegnato il premio che a sua volta aveva ricevuto nel 2002 in opposizione alle idee di Israel. Siccome le idee di Israel non piacciono a questo altro suo collega, quest'ultimo ha restituito il premio per prendere le distanze dalla decisione di quest'anno. E tutti e due mi sembrano un doppio grave attacco alla libertà scientifica ed opinione, meritevole forse di maggiore attenzione da parte dei media e degli organizzatori delle marce sulla libertà di informazione. E quindi qui esprimiamo solidarietà a Giorgio Israel e parliamo di questo libro premiato, Il mondo come gioco matematico, la vita e le idee di John von Neumann, che Israel ha scritto con Anna Mian Gasca, che è anch'ella una importante studiosa di matematica. Il libro è pubblicato da Bollati Boringhieri, 274 pagine, 22 euro. In effetti si tratta di un'opera divulgativa che ci presenta la figura di uno dei più grandi scienziati matematici del Novecento, una figura, scrivono i due autori, che rappresenta forse meglio di ogni altra la scienza del Novecento e che con la sua attività intellettuale, aggiungono, contribuì poderosamente anche allo straordinario dispiegamento di potenza della scienza del XX secolo, che si è espresso nello sviluppo dei calcolatori, nelle tecnologie dell'automazione, nei viaggi spaziali e nell'uso dell'energia atomica. Von Neumann era uno scienziato di origine ungherese che studiò in Germania e poi approdò negli Stati Uniti, di cui diventò cittadino nel 1937. Negli Stati Uniti von Neumann condivise l'impegno per la difesa della democrazia, prima dal nazismo e poi dal comunismo, e questo lo portò ad aderire, tra l'altro, al progetto di Los Alamos e allo sviluppo della tecnologia nucleare. Un aspetto naturalmente sul quale si è molto discusso. Ma sentiamo uno degli autori, Giorgio Israel, appunto sulla figura di von Neumann. Buongiorno professor Giorgio Israel. Buongiorno. Professore Israel, nel vostro libro voi sottolineate come von Neumann abbia svolto un ruolo particolare nel campo della scienza e soprattutto indicando un ruolo sociale allo scienziato. A un certo punto lei scrive che il suo punto di vista riproponeva l'ideale di una società guidata dal razionalismo scientifico e quindi in qualche misura l'ideale di Neumann era quello di una società nella quale gli scienziati potessero svolgere un ruolo anche di guida non soltanto tecnologica e scientifica ma anche in qualche misura sociale. In questo senso il suo insegnamento suscita degli spunti di attualità, perché mi pare che questo tema sia tornato di grande attualità. Beh sì, perché tra le tante realizzazioni che ha fatto von Neumann vi è lo sviluppo delle applicazioni della matematica all'economia, la teoria dei giochi, che poi va al di là dell'economia, perché l'idea è quella di usare la matematica per una gestione razionale dei conflitti sociali in generale. E quindi da questo punto di vista sì, effettivamente von Neumann ha propugnato una visione di gestione razionale della società, anche se va aggiunto un po' con una tinta pessimistica, cioè date le esperienze da cui veniva la crisi dell'Europa degli anni 30 e poi la guerra fredda e così via, diciamo che non era persona che nutrisse grandissima fiducia in un futuro luminoso dell'umanità, ma in qualche modo appunto la gestione razionale dei fatti sociali doveva servire a temperare i rischi, ecco. E infatti il vostro libro si conclude con la domanda se la tecnoscienza possa dare a se stessa i limiti del proprio sviluppo e quale sia l'interazione tra progetti scientifici, innovazione tecnica, etica, convinzione religiosa. Anche questo un tema di cui si discute sempre di più oggi. Beh, ecco sì, perché la parte ottimistica del pensiero di von Neumann sta nell'attribuire alla gestione razionale, alla matematica, una, non direi onnipotenza, ma certamente una capacità quasi smisurata che oggi vediamo non essere così. Ad esempio per von Neumann, che tra le tante grandi realizzazioni che ha fatto è il padre del computer digitale e è anche uno dei padri della meteorologia scientifica, e von Neumann credeva negli anni 40 e 50 che con il computer digitale, con un perfezionamento sempre maggiore del metodo di rilevamento dei dati meteorologici, fosse possibile arrivare a una previsione sempre più spinta dei fenomeni del tempo e addirittura in prospettiva al loro controllo, mentre oggi ci rendiamo conto che siamo molto lontani da questo e che vi sono anzi degli ostacoli probabilmente se non insuperabili, comunque molto, molto seri. Ecco, quindi da un lato crisi in qualche misura dello scientismo, dall'altro lato, come lei ha scritto in un altro libro, Chi sono i nemici della scienza, crisi della cultura scientifica dovuta anche a quello che lei chiama il disastro educativo italiano. Sì, perché secondo me von Neumann è un personaggio interessante perché è a cavallo, cioè lui da un lato rappresenta uno scienziato di tipo nuovo perché da matematico puro qual era si è gettato nella mischia delle applicazioni, si è occupato di tutto, perfino di problemi di gestione industriale, dell'estrazione del petrolio, le cose più incredibili. E ha saputo diventare un matematico applicato nel senso moderno, però allo stesso tempo era un matematico, uno scienziato classico, nel senso che riteneva che poi la fonte di tutto fosse una riflessione di carattere teorico, un fondamento teorico della scienza e quindi una visione quasi filosofica della scienza, e questo oggi si è perso e a mio avviso è un rischio enorme, perché lo stesso esempio di von Neumann ci insegna che le grandi scoperte tecnologiche sono state frutto di sviluppi teorici. Il computer digitale non è stato un marchingegno inventato manipolando, è frutto di un schema di carattere teorico. E del computer von Neumann fu uno dei padri? Beh sì, perché diciamo in un periodo in cui si costruivano enormi macchine elettromeccaniche sempre più complicate e pesanti, che però non portavano a una svolta vera, lui ha ripensato dalla radice il problema della costruzione di una macchina calcolatrice, imitando diciamo certi aspetti del funzionamento del sistema neuronale umano, e quindi è ripartito dalle basi e ha dato un'idea completamente nuova che poi tra l'altro è ancora la stessa dal punto di vista concettuale su cui noi, sulla quale noi costruiamo sia pure con mezzi completamente diversi, ma insomma concettualmente è quella l'idea con cui costruiamo ancora i computer, e quindi questo ci dice che senza delle grandi idee di ricerca di base proprio concettuale le grandi scoperte tecnologiche non vengono fuori. Questo è un insegnamento per l'oggi, perché stiamo perdendo questa lezione. Fu anche uno dei padri della bomba atomica, uno dei padri più convinti forse. Ah beh, senza dubbio, anche se certamente non ha avuto un ruolo importante come quello di Enrico Fermi, ad esempio di Oppenheimer. Il ruolo di von Neumann è stato soprattutto quello di ideare il meccanismo di innesco della bomba, un meccanismo di implosione, e di formulare un modello matematico per appunto questo meccanismo che implementò sui primi computer da lui stesso messi in opera. Quindi quello che va aggiunto è che poi von Neumann ha continuato a collaborare al programma atomico statunitense come vicepresidente della Commissione per l'Energia Atomica, anche quindi la fabbricazione della bomba H, è stato sicuramente un convinto assertore del riarmo nucleare statunitense, che questo diciamo lo ha fatto considerare come un falco, diciamo, come si direbbe oggi. E quindi diciamo il vostro ritratto serve anche a completare la conoscenza di questo scienziato che altrimenti rischierebbe di essere ricordato. Noi cerchiamo di inquadrare questa fase problematica in un modo con la distanza storica che si deve avere, sono gli anni della guerra fredda, sono anni drammatici in cui, come del resto nel periodo nazista, tutti si schierano. Von Neumann è di qua, non so, Bruno Pontecorvo, il grande fisico italiano, fuggì in Unione Sovietica a costruire la bomba dall'altra parte. È stato un periodo molto, molto drammatico, oggi ce lo dimentichiamo, quindi di grandi divisioni e di uno schierarsi, e quindi le cose vanno lette in modo equilibrato in questo contesto. Grazie a Giorgio Israel. Grazie a lei. L'altro libro di Israel al quale ho fatto riferimento è Chi sono i nemici della scienza? Riflessioni su un disastro educativo e culturale, documenti di mala scienza, pubblicato dall'Indau, 352 pagine, 21,50 euro. Un libro assolutamente divulgativo proprio sulla matematica è quello di Giovanni Filocamo, Mai più paura della matematica, come fare pace con numeri e formule, pubblicato da Kowalski, 256 pagine, 13 euro. Questo libro si rivolge espressamente a coloro ai quali la matematica non è molto simpatica. A loro l'autore raccomanda di rimanere di questa idea fino alla fine del libro. Non vuole promettere meraviglie dalla matematica, ma vuole fare vedere alcuni aspetti della vita e come questi, spiega, siano legati al fare matematica. L'attenzione per la matematica in realtà sta crescendo grazie anche ad alcune iniziative alle quali collabora lo stesso Filocamo, e dunque, per essere un po' più attrezzati, questa può essere una buona guida che non mancherà di riservare delle sorprese. Restiamo in tema. Il confettino. In realtà parliamo di fisica con La fisica del Bau, Baffi, denti e piume raccontano la scienza, di Monica Marelli, e illustrato da Alberto Rebori, pubblicato da Editoriale Scienza, 96 pagine, 10 euro. Un alligatore, una giraffa, un gatto e naturalmente un cane e molti altri animali fanno accostare i lettori all'incirca dell'età consigliata intorno ai 10 anni ai fenomeni della fisica, quali per esempio e rispettivamente la pressione atmosferica, la pressione sanguigna, la catarinfrangenza e il moto browniano. Naturalmente ci sono molti altri animali, molti altri fenomeni, e per ogni fenomeno viene anche presentato un esperimento che non dovrebbe, vi assicuro, distruggere la casa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo adesso alla narrativa e in particolare alla narrativa americana con tre autentici mostri sacri. Il primo è Philip Roth, di cui Einaudi pubblica Indignazione, 138 pagine, 17,50 euro, tradotto da Norman Gobetti. Questa è l'ultima prova in italiano di una prodigiosa maturità del grande scrittore, ormai 75enne, che ha pubblicato tre romanzi, molti dicono tre autentici capolavori, in tre anni. Questo è stato salutato con molto favore dalla stampa internazionale, e per esempio il Financial Times l'ha giudicato un capolavoro della maturità, l'ha definito cesellato, appassionato e affascinante. E il libro ci racconta la storia di Marcus Messner, è ambientato nell'America degli anni 50, dominata dallo shock della nuova guerra, la guerra di Corea. Il protagonista è un ragazzo di famiglia modesta, in particolare sono molto belle le pagine iniziali nelle quali Marcus racconta la propria esperienza di aiutante macellaio del padre e le dure prove alle quali questa esperienza di lavoro lo obbliga, delle prove che però lo fortificano nelle sue scelte di vita. Finalmente il ragazzo approda a un'università di medio livello, ben deciso a darsi da fare sia per fare carriera, per riuscire nella vita e soprattutto per non pesare troppo sulle spalle della famiglia. Insomma, è proprio un bravo ragazzo che vuole fare di tutto per vincere la morbosa apprensione del padre, che appena lui è uscito di casa è terrorizzato da quello che gli possa succedere, e soprattutto vuole vincere il timore comune alla sua generazione di finire a fare la guerra in Corea. La storia avrà un epilogo inatteso, anticipato con una sorpresa narrativa circa un terzo del romanzo, che dà un improvviso scarto e suspense alla narrazione. Infatti a un certo punto sappiamo bene come andrà a finire la storia, ma siamo rapiti dal desiderio di capire perché l'esito sarà proprio quello, un esito assolutamente inaspettato. E la ragione di questo esito sta proprio nel temperamento del ragazzo, un bravissimo ragazzo, ripeto, che pensa a far carriera, pensa a farsi una famiglia, ma che incapperà e si dovrà opporre al conformismo del tempo, la cui descrizione culmina nel colloquio centrale col decano del collegio. Qui il ragazzo è convocato per un futile motivo e viene sottoposto quasi a un processo perché risulta che egli è ateo, che è assolutamente indipendente come carattere, addirittura seguace di Bertrand Russell nelle sue teorie contro la religione e contro la Chiesa, assolutamente disinteressato allo sport. Sentiamo dalle righe che vi propongo proprio la requisitoria finale del decano che in qualche misura contribuirà a decidere il destino di Marcus. Scoprire che Bertrand Russell per te è un eroe non mi stupisce affatto. In ogni campus ci sono sempre due o tre giovani intellettualmente precoci, saputelli che si autoproclamano membri di un'elite e hanno bisogno di sentirsi superiori ai compagni, superiori addirittura ai professori, e per questo attraversano la fase dell'ammirazione per un agitatore o iconoclasta del tenore di Russell o Nietzsche o Schopenhauer. Comunque non siamo qui per parlare di tali visioni. E certamente tu hai il diritto di ammirare chi vuoi, per quanto a me possa apparire deleteria l'influenza e pericolose le conseguenze di un cosiddetto libero pensatore e sedicente riformatore. Marcus, ciò che oggi ci porta qui insieme, ciò che oggi mi preoccupa, non è il fatto che per prepararti ai dibattiti alla scuola superiore tu abbia memorizzato parola per parola le facinorose opinioni di un Bertrand Russell volte ad alimentare lo scontento e la ribellione. Ciò che mi preoccupa sono le scarse capacità di socializzazione che stai dimostrando qui al Winsburg College. Ciò che mi preoccupa è il tuo isolamento. Ciò che mi preoccupa è la tua aperta ostilità all'antica tradizione di Winsburg, come dimostra il modo in cui hai reagito alla funzione in cappella. Un impegno di poco conto che agli studenti non sottrae che un'ora di tempo alla settimana per circa tre trimestri. Lo stesso impegno richiesto per l'educazione fisica, e non più insidioso di quello, come io e te ben sappiamo. E allora proprio l'indignazione diventerà il tratto principale dello stare al mondo di Marcus. Un sentimento, ha spiegato Philip Roth in un'intervista al Wall Street Journal, che non è assolutamente un sentimento esclusivamente contemporaneo. Ha detto infatti Roth: il dramma greco è pieno di indignazione, Omero è pieno di indignazione, Achille è l'indignazione che cammina. No, non è affatto un sentimento moderno. Il secondo autore, John Updike, morto pochi mesi fa, di cui Guanda propone l'ultimo libro, Le vedove di Eastwick, 320 pagine, 17,50 €, tradotto da Silvia Piraccini. Questo è il seguito ironico e amaro di uno dei più importanti libri di Updike, Le streghe di Eastwick del 1984. Lì le tre protagoniste, Alexandra, Jane e Saki, animavano coi loro poteri nella cittadina del Rhode Island una sorta di rivoluzione femminista. Quello fu un libro dall'enorme successo, dal quale furono tratti film, commedie e serie televisive. Adesso, dopo 30 anni, le tre ragazze, non più ragazze, ormai vedove, decidono di ritrovarsi e dopo un viaggio di ritornare proprio lì, a Eastwick. Le loro avventure saranno meno turbinose, anche perché l'America è ben diversa. Siamo nel post 11 settembre e le righe che adesso vi propongo ci fotografano questa nuova America, più conformista e meno eccitante. L'Eastwick che ricordo è un paesotto provinciale divertente, si lamentò Jane, e invece adesso è omogeneizzato, leccatino. I marciapiedi di downtown sono tutti di finto granito e la banca Old Stone è raddoppiata come un grande cancro imperturbabile che inghiotte tutto. E i giovani, quelli che hanno l'età che avevamo noi quando abitavamo qui, sono così soporiferi. Basta guardarli. Giovani mamme palestrate che con il loro SUV grande e grosso portano i figli grandi e grossi all'allenamento di hockey a 30 km da casa. Giovani papà castrati, tutti cicip e cicciop, che aiutano la mogliettina Ina nei lavori domestici, affannandosi tutto il sabato dietro la loro deliziosa casetta. Siamo tornati agli anni 50, ma senza il pretesto dei russi. E proprio la città diventa, ha scritto il New York Times, l'autentico protagonista di questo romanzo, una città che Updike descrive in una luce quasi metafisica, così da renderla immobile e simbolica. Infine il terzo mostro sacro, Saul Bellow, per la verità canadese di nascita, ma americano di adozione, morto nel 2005, premio Nobel per la letteratura nel 1976, di cui esce una conversazione con Norman Manea, che a sua volta è uno scrittore romeno di origine ebraica. autoesiliatosi a New York per sfuggire al regime di Ceausescu. Il libro si intitola Prima di andarsene, pubblicato dal Saggiatore, 142 pagine, 16 euro ed è tradotto da Ada Arduini. Questa intervista è il frutto di un interessante progetto che hanno lanciato alcune università israeliane e la Biblioteca Nazionale di Gerusalemme per raccogliere interviste a grandi protagonisti della letteratura contemporanea. E qui appunto Bellow ripercorre la propria vita, stimolato dalle domande di un suo collega scrittore che riesce a far emergere i tratti segreti della sua vita, del suo carattere, della sua scrittura, che così lo stesso scrittore ci spiega. Quando ero piccolo era semplice. Un uomo ha una voce profonda, un naso affilato, porta il cappello storto e ha dei brutti denti, o quello che preferisci. Metti tutto insieme e ottieni quell'uomo, che viene poi rappresentato da un motivo dominante o da un altro, magari dal suono della sua voce o da quello che vuoi. Questo tipo di conoscenza intuitiva è infantile, ma come sai, non muore con il bambino, prosegue. E questa è la verità in un certo e importante senso. E se non lo fosse, la gente non presterebbe alcuna attenzione a quello che scrivi. Evidentemente, si potrebbe dire, è la verità per tutti. Il mio lavoro è essere me stesso, ed è così che faccio tornare i conti prima di andarmene. Mi chiedi che cosa significa essere un artista. Prima di tutto, vedi ciò che non hai mai visto prima. Hai aperto gli occhi e c'era il mondo. Il mondo era un posto molto strano. Ne hai ricavato una tua versione, non quella di qualcun altro. E sei rimasto fedele alla tua versione e a quello che hai visto. Credo che, in senso personale, sia questa la radice del mio essere scrittore. Prima di salutarci, cambiamo completamente genere con Fulminati in azienda di Jack O. Seltz. Chiaramente un nom de plume che nasconde un gruppo di consulenti d'impresa che rispondono al nome di Andrea Beretta, Mauro Gambini, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti. Il libro è pubblicato dal Sole 24 Ore, costa 18 euro, 142 pagine. Non è un libro di consulenza aziendale, o meglio lo è, ma sotto forma ironica e sarcastica, perché si parla di un'azienda del dopocrisi che vive l'esigenza di cambiare e rinnovarsi tra conformismi e adattamenti. Non è un manuale, ma una storia che certamente può insegnare molto, sia per riconoscersi e sia per prendere magari qualche utile contromisura. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Pietro Accorti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.